che colora il cielo che si indora ed è giorno ancora. I prati a illuminare e lentamente appare l'immagine reale. Non resta che partire e ricominciare a correre e carpire questo viver marginale. Modalità acquisita, usanza dipendenza e non puoi starne senza. Speranza vera, bentornata primavera. Rigogliosi prati verdi e le corse fino a tardi, custodite nei ricordi. La storia di un frammento di lietezza e di contento, aneddoto sepolto dall'asfalto e dal cemento. Non mi sorprendo più, distinto e propensione, ne ho fatto una ragione. Noi siamo fatti così, noi siamo un botto di più di una storia illusoria che il vento porta con sé. È un'altra estate già qui, sento il profumo nell'aria, il sole alto è già che piano scenderà, lascerà il posto alla luna, alla sera. Noi siamo fatti così, noi siamo un botto di più di una storia illusoria che il vento porta con sé. È un'altra estate già qui, sento il profumo dell'aria, è un altro giorno va e il tempo passerà. In punta di piedi e il rumore non para. Porte dentro e la passione per la vita, ardore e patimento, slancio e turbamento, armonia infinita. Pensieri come suoni che cambiano da soli e piano prendono forma e si trasformano in canzoni. La melodia si sente, riecheggia nella mente, nelle cose fra la gente.